Questo pallone vuole essere un simbolo del passato del calcio, del passato della Juventus e uno stimolo per il nostro futuro. Un pallone degli anni 50 appartenuto a Gianni Agnelli e che il nipote dell'avvocato John Elkann affida al capitano dei capitani, Alessandro Del Piero. Così la Juventus inaugura la sua nuova casa, quello stadio che nascerà al posto del Delle Alpi. Sarà proprio Alex a portare quel pallone, simbolo di 111 anni di storia, nel nuovo impianto. In attesa di trovarne il nome, sarà quello di uno sponsor, dall'amministratore delegato bianconero Jean-Claude Blanc la dedica più sentita. Tutti coloro che hanno giocato una partita, un minuto, tanti partite, tanti anni, tutti che hanno lavorato alla Juventus hanno meritato questa casa, penso anche ai nostri tifosi, 14 milioni solo in Italia. Inizio dei lavori ad aprile 2009, fine prevista per giugno 2011, 105 milioni di investimento, 40.200 posti a sedere, oltre 34.000 metri quadrati con negozi, ristoranti, museo del club, per riavvicinare al calcio le famiglie. E per una volta anche il sindaco di Torino Chiamparino, vecchio cuore granata, condivide la soddisfazione dei cugini bianconeri. Noi a suo tempo avevamo tentato, l'avevamo fatto anche col Torino, poi c'è stato il fallimento del Torino di Ciminelli e quindi questo ci ha obbligati a ritornare in possesso dello stadio che è poi diventato lo Stadio Olimpico. Io credo che quando uno è sindaco di tutti i cittadini e questo vale per la politica e per lo sport. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino.